You're ready. Tutto questo si potesse descrivere in una sola parola. Una sola parola che riuscisse ad esprimere tutte le nostre sensazioni, emozioni, quello che ci entra nel corpo, nell'anima, nel cervello! Una chiave che riesce ad aprire qualsiasi porta di questo universo. C'è solamente un nome che riesce a fare l'impensabile. Si chiama Dorian Gray. Open the speed. What's your main thing? I'm coming in. I don't wanna Auguri all'amoroso di Silicon Heights. Soddisfazione. È venuto qui apposta Luca Navigator. Check me now. Sodomizzarti. Chi ha voglia di fare l'amore, alza le mani e grida! Cristia! Dall'universo e tuffarsi nella luce. La luce è tutto ciò che noi vogliamo. Starlight, luce. Frammenti radioattivi da prendere e cogliere. Dico per vantarmi, mi escono le frasi e diventano fantasmi. E la prosa è spiritata che proietta la follia, si mischia la tua anima e ti trascina via. Liberi, liberi, liberi. In un altro mondo, in un altro spazio, in un altro tempo. Navigator. Gli amici di Fornovo, ciao! Reggio dell'Emilia, Parma! come quando d'improvviso. Nasce il sole sul tuo viso, o quando meno te lo aspetti, arriva il diavolo. Sta bussando la tua porta. Fammi entrare, Dorian Gray. Io sono Belzebub. Fammi entrare. This is a nightmare. Voglio la tua anima. It's a nightmare. Fammi entrare, Dorian Gray. Nightmare. Non lo so. C'è nessuno che urla? I ragazzi di Poviglio portano scompiglio. Ciao! Dove sei, Dorian Gray? Fatti vedere sulle mani! I ragazzi in centropista sono pregati di non sfogare. Festeggiano i 4 anni a Dorian Gray. Più tardi si spoglieranno nude per noi. Roma, la capitale. Dove sei, il popolo? Fatti vedere! Chiedetevi nelle vostre case, nascondetevi, ti puniranno per i vostri peccati mortali. We'll be right back. dell'infinito, al di là della vostra immaginazione. La nostra macchina del tempo, Navigator. Luca Antolini, Dorian Gray. Facciamogli un grande applauso perché se lo merita dal cuore.